Oe. E beh. Tutto bene? Ecco a voi. Finalmente il nuovo disco. Buon gusto. La cura del taglio. Arte Kimuji Special Ste. Bette Beat Nuoro City 2005. Aio! Unité 1. Introduction. Exercice 1. Écoute et répète. Écoute et répète.